Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buon Natale! Ma tanti auguri! Tanti auguri! Che tanti auguri! È Natale, il giorno di Natale! Noi siamo qua in radio per voi! Sì, ma io sono contenta perché magari uno prende consapevolezza anche il giorno di Natale, che è più rilassato e sente alcune cose che a volte dà per scontato, sì, che sì, non sì, riesce a percepire. Adesso sono le 12, quindi voi starete preparando la tavola, starete aspettando gli ospiti a casa. Noi vi teniamo compagnia raccontandovi di storie di animali e ed essere umani. A proposito di storia, vi voglio raccontare questa storia che a me Angelo è piaciuta tanto. Diverse settimane fa Angelo ha parlato del fatto dei cani lasciati soli in giardino e ha spiegato perché non sono felici, perché se poi li osservate sono sempre seduti davanti alla soglia di casa, e ha spiegato varie motivazioni del perché, come bisogna fare. Una nostra ascoltatrice ci ha scritto subito una mail dicendoci che lei non era d'accordo con quello che aveva detto Angelo, perché lei aveva salvato dal canile diversi cani. No, soprattutto perché un canile le aveva negato la possibilità di adottare, perché lei le avrebbe tenuto i cani in giardino. Esatto, quindi lei ci è rimasta molto male, ha portato la sua testimonianza. Hanno avuto questo confronto con Angelo che potrete trovare nei podcast di qualche settimana fa. Cosa succede? Che qualche giorno fa ci arriva la lettera di Michela, che io vi voglio leggere, riferita appunto a quell'incontro lì. Lei dice: Angelo non si è affatto convinto della mia posizione che i cani possono essere felici anche se non dormono in casa, bensì mi ha definito un adottante di serie B. Ci sono rimasta un po' male lì per lì, ma col passare dei giorni sono stata in grado di rielaborare fino a rivedere le mie posizioni, chiedendomi se davvero non fossi così dal torto, e sono giunta alla conclusione che probabilmente sia proprio così. Circa 10 giorni fa, fuori pioveva e tirava vento. Abbiamo chiamato i cani in tavernetta e loro si sono accomodati bellamente sul divano, dimostrando una felicità e un relax senza pari. Da quel giorno i cani dormono ogni notte sul divano. Non è che la favola sia lieto fino al 100%, perché comunque i cani non dormono proprio in casa con noi, cosa che sarebbe matematicamente impossibile per ragioni di spazio e per la presenza di criceti in due diverse stanze, ma al piano di sotto. E poi, vi ricordate, il mio compagno non era molto d'accordo. Comunque in questi giorni si discute dell'argomento in casa. Il mio compagno mi chiede con regolarità: i cani hanno sempre dormito fuori, cos'è cambiato? Il clima non è certo più freddo, semmai è più caldo. Ma io rispondo: non è il clima ad essere cambiato, ma la mia percezione. Ho cambiato punto di vista e ritengo che i cani siano più felici così. Quindi la domanda giusta non è perché adesso dormono in casa. La domanda giusta è perché i cani non hanno mai dormito in casa? Ecco, al di là della mia pessima performance radiofonica, che io aggiungo, Rosita, non è vero, volevo farvi sapere che persone del calibro di Angelo Vaira hanno il potere di far cambiare le cose, ma immagino che questo lo sappiate già. Un augurio e buon proseguimento. Abbiamo Michela con noi. E noi abbiamo Michela in linea. Michela, Michela, però non è che io ti volevo definire, non è che ti ho detto sei un adottante di serie B, cioè mi sono messo nei panni di quelli che sono al canile e loro preferiscono che i cani vadano in casa piuttosto che in giardino. Intanto voglio dirti, Michela, che quando abbiamo letto la tua lettera io e Angelo ci siamo commossi. Sì, io mi sono immaginato i cani lì a lei ci ha mandato una foto, e abbiamo visto la foto che lei ci ha mandato di questi cani acciambellati sul divano, bellissimo. Ma ci ha commosso il fatto che tu, la tua estrema sensibilità in entrambi i casi, sia quando volevi mantenere il punto su una posizione che tu pensavi e vivevi in quel momento come fosse la cosa più giusta per i cani, però ti sei messa in discussione. Questa è un'azione veramente di grande umiltà e di grande attenzione per l'altro, che non viene fatta facilmente, capito? Quindi grande rispetto a quello che tu fai quotidianamente per loro. Sai cosa? Che io penso che le persone davvero forti, quelle mature, non hanno bisogno di dimostrare nulla a nessuno e non temono di cambiare idea, come io cambio spesso idea, io stesso. Infatti, sì, quando certo. Ho letto l'email di Michele, ho detto: caspita, effettivamente, mostri i cani se ne stanno in canile invece di stare con lei. Forse era meglio il giardino che con lei e non il canile. Quindi vedi che esatto, c'è stato un doppio, una doppia ma è presa vero, di ma coscienza. Cambi prospettiva. Certo. Senti, ci racconti un po' che cosa è successo dopo, appena tu, quando tu hai deciso di farli entrare in casa? Beh, soprattutto l'ultima cagnolina, quella che ho adottato a fine agosto, che era una cagnolina fobica, quindi in canile non si faceva avvicinare se non da pochi volontari. Quindi io ho fatto un percorso con lei, sono andata tutti i giorni in canile, però ugualmente non avevo ottenuto nessun risultato. adottato, nel senso che lei continuava a non farsi avvicinare neanche da me. E nonostante ciò l'hai adottata? Nonostante ciò l'ho adottata, su indicazione dell'educatrice cinofila del canile, che ha avuto ragione, perché in effetti quando la cagnolina è arrivata a casa comunque ha cambiato subito atteggiamento. Però manteneva lo stesso atteggiamenti di paura, mentre mangiava, insomma, guardava circospetta, scattava al minimo rumore. E invece dal momento che l'ho messa sul divano lì a fianco a me, proprio l'ho vista rilassarsi, l'ho vista, ha iniziato a fare i rotolini con la pancia in aria, insomma, mugolava. Perché? Insomma, aveva subito una cosa di benessere, ecco. Perché alla base della costruzione dei legami di attaccamento c'è la prossimità, c'è questa vicinanza sia fisica che empatica, emotiva. Quindi quando tu dai al cane la possibilità di stare lì, di dormire insieme a te, no? Cioè, questo co-sleeping, cioè stare assieme in momenti di riposo, di relax, questo rinsalda i legami. Quindi adesso, loro possono dormire giù in tavernetta nel divano, cioè hanno un divano tutto per loro praticamente. Sì, beh, l'altro cane, quello più anziano, aveva già una poltrona lui dedicata, e adesso l'altra cagnolina è nel divano lì di fronte, in modo che ognuno abbia i suoi spazi abbastanza esclusivi. E la cagnolina la condivide col gatto, perché il gatto giustamente dice anch'io. Certo. Senti, e il tuo compagno che dice a distanza di un po' di tempo? Continua a essere un po' perplesso, infatti magari gli farò ascoltare questa puntata. Sì, no, ma secondo me, ma sì, magari ci arriva dopo, però sai, posso capire anche la sua perplessità. Tu sai, ci sono persone che arrivano prima, poi tu ti sei proprio messa in discussione, come si è messo in discussione Angelo, che ha capito che effettivamente intanto tu li avevi portati fuori da un canile, perché i canili sono, per quanto deliziosi e tenuti bene, anche quelli tenuti bene comunque sono una condizione di carcere, non è una condizione ottimale per un animale come il cane, poi per nessuno, ma in questo caso noi siamo stati felicissimi di raccontare la tua storia e di leggere la tua mail per Natale, perché secondo noi non c'era augurio più bello che si può fare alle persone. È un bel modo di cominciare sto Natale oggi. Sì, di continuare questo Natale 25, perché guarda, sei stata veramente perfetta in quello che hai fatto dall'inizio, dalla tua scelta di decidere di prendere una cagnolina diffidente, però non demordere, portarla a casa, di tenerla in giardino, perché tu in quel momento quello che avevi appreso era quello, e comunque l'hai tolta da un canile. Poi incontri noi, hai avuto il coraggio, l'interesse a mandarci una mail per confrontarti e dirci che non eri d'accordo sul fatto che fuori stessero male. Cioè, capisci, tutto questo percorso è stato un percorso di crescita che ha fatto bene a tutti, a noi, a te, ai cani, al tuo compagno anche, che ci arriverà un po' dopo. Magari una volta intervisteremo lui in radio. Sì, intervistiamo lui. Basta cani in casa! Avete rotto le scatole. Senti, ti abbracciamo tanto, veramente. Metteremo la tua lettera sui social, perché ci ha commosso ed è un gran bel esempio. L'hai scritta anche molto molto bene, veramente con il cuore. Un abbraccio a Grazie. Tutta la famiglia, Michela. Michela, grazie. Buon Natale. E a voi. E qualunque cosa, noi ci siamo. Ok, vi ringrazio e buon Natale. Grazie, un abbraccio grande. Ciao. Il falco e il gabbiano. Sono Enrico Ruggeri e in arrivo per voi una grande puntata natalizia. Racconteremo la storia di Scrooge, il protagonista del Canto di Natale, e soprattutto capiremo perché e da quando il Natale è diventata la festa nella quale tutti proviamo a essere più buoni. La notte della vigilia alle 21:30 e il giorno di Natale alle 13:30. La storia della nostra bontà. Buon Natale. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Rieccoci qui in studio in questa giornata di Natale. modifichiamo subito il tono di voce. E buon Natale. Buon Natale con noi di Radio 24. E chiedimi se sono felice con Angelo Vaira, Rosita Celentano e Peter. Io mi sto immaginando la neve che scende in città, tutto bianco, che c'è tutto silenzio. Quel silenzio dei piedi sulla neve. Ma io non so, perché devi fare la parodia mia anche a Natale? Fai il bravo fidanzato. Sto facendo la tua parodia. Eccoci. Vedi, era molto meglio l'atmosfera natalizia. Allora, parliamo del botto, del pum pum pum, come dice Fiorello. Ridicolo Fiore, perché molti dei molti dei nostri ascoltatori si chiedono cosa fare per aiutare i cani. Sì, perché purtroppo ci abbiamo delle scadenze spiacevoli spesso durante l'anno, che non solo vanno a danno di noi esseri umani, ma vanno a danno soprattutto degli esseri più indifesi, in questo caso gli animali, che ovviamente non capiscono, che hanno paura, che a seconda dei rumori che sentono loro sanno che hanno un comportamento, giusto? Vanno premiati quei sindaci che hanno vietato nei loro comuni lo sparare dei botti a Capodanno e Natale, quindi seguiteli, se ci sono altri sindaci in ascolto che seguono questo buon esempio. Allora, se volete approfondire potete andare sul mio sito angelovaira.it e digitare vademecum per i botti di Capodanno. Vi spieghiamo un po'. Allora, cosa fare per quei cani che hanno paura dei botti. Primo punto, tienilo in casa perché se tu tieni il cane in giardino e il cane è fobico, ha paura così tanto dei botti, rischia di scappare. Per esempio, io ricordo una persona che conoscevo tanto tempo fa che aveva il cane che aveva paura dei botti, l'ha lasciato in giardino, il cane ha cercato di scavalcare una rete per poter andare via e si è impiccato con il collare sulla recinzione. Dio mio, quindi i cani possono scappare, possono farsi male, ferirsi, quindi tenete, mi raccomando, i cani in casa se i cani hanno paura. Secondo punto, chiudi le finestre, abbassa le tapparelle, accendi la TV e alza il volume della musica. Sì, i botti possono essere attutiti in questo modo, cioè invitate amici, fate date un party, così ma che se i botti se ne vanno li lasciano a casa da soli. Appunto, non dovrebbe essere fatto, cioè se il tuo cane ha questa forte paura dei botti, allora te lo devi portare con te. Sì, portatelo con te, oppure puoi fare un giro in macchina, per esempio. I giri in macchina, che sai, la macchina attutisce, alzi la musica. Sì, amore, ma secondo te, per chi la mezzanotte? Io l'ho fatto, tu, certo. Emanuele l'ha fatto, grazie. Tanti miei amici l'hanno fatto. Allora, se del cane a te te ne frega qualcosa, lo fai. Ti certo. Salti quel momento lì dei botti e poi ritorni a far festa. Ma perché uno vuole fare 10, 9, 8, 7, 6 e chi se ne frega? Tanto dicono, per 10 secondi il cane può aver paura che se ne frega. Perché questo ragiona, purtroppo, secondo me, la maggior parte delle persone. Sì, ma ce ne sono altre che magari si stanno chiedendo che cosa fare. Magari sono anche disposte a rinunciare a quei 10 secondi. Ecco che qua hanno un'alternativa va piacevole. Va bene, va bene. Se quei secondi invece per loro sono importanti, è semplice, basta che il cane stia in casa con loro, perché quella cosa del 10, 9, eccetera, eccetera, 10, 9, 8, il conto alla rovescia, la musica, la TV accesa, le tapparelle abbassate attutiscono il rumore dei botti, quindi vanno benissimo. L'importante è che il cane sia con te e non sia all'esterno a sparare. Okay. Ho letto anche che ci sono queste fasce particolari, volevo sapere se funzionano, che gli si mettono intorno al corpo, che per molti cani funzionano. C'è anche una cosa che si chiama Thunder Shirt, che funziona per i botti, funziona per i temporali estivi. Ci sono alcuni cani invece su cui non fanno semplicemente effetto, addirittura che si inibiscono ancora di più. Quindi dipende dal cane. Allora, terzo punto, svolgi i suoi esercizi preferiti, quindi per distrarlo, intendi? Sì, e anche per associare quel momento lì a qualcosa di più piacevole. Più l'esercizio è bello per il cane ed è conosciuto dal cane, più funziona. Ok, quarto punto, mostrati sicuro e tranquillo. Questo perché se tu stai col cane che ha paura e ti fai contagiare da questo stress, e quindi dici, oh no, Dio, ma perché stai così? Il cane dice, cacchio, già ero preoccupato prima, adesso infatti, a vedere te mi stai veramente dicendo che devo aver paura, no? Infatti. Quindi quando noi abbiamo timore di qualcosa, qual è il tipo di persona che vorremmo a fianco? Me. Esatto, quindi chiamate Rosita Celentano nelle vostre case mentre ci sono i botti. Allora, il vostro cane desidera che voi siate sicuri, vogliono vedere i vostri cani che voi siete tranquilli, centrati, che sapete il fatto vostro. Non dovete ignorare il cane, perché questo è un altro grosso errore che ti dicono, ignoralo, che non fa niente. Non è così, le paure non possono essere rinforzate. Non è che se tu premi un cane mentre ha paura quello avrà più paura, non funziona in questo modo. Quindi tranquillamente potete accarezzarlo, potete accettarlo vicino a voi, poi il cane ricercherà naturalmente prossimità, vicinanza in quel momento. Bene, siate vicini, le vostre emozioni però che non siano quelle di ansia e di paura, ma che siano quelle di una persona tranquilla. So che cosa sta succedendo, me la cavo e ti do una mano. Quinto punto, microchip e medaglietta. Fondamentale, perché se il cane scappa e non è microchippato, ovviamente si può perdere. Questo indipendentemente dal Capodanno, insomma. Sì, però a Capodanno capita spesso che i cani scappino e si facciano del male. C'è un comunicato ANSA, io l'avevo riportato nel 2010, che diceva che 5.000 animali muoiono nella notte di San Silvestro per colpa dei botti. Madonna. E tra questi 1.500 sono cani e gatti, quindi mi raccomando, il vostro cane deve essere microchippato, perché come è successo alla nostra amica poco tempo fa, che ha trovato un cane al Parco Forlanini, grazie al microchip hanno ritrovato i proprietari, altrimenti... 6. Finito Capodanno, rivolgiti ad un esperto. Questo è fondamentale, cioè i consigli che noi abbiamo dato finora servono a gestire il problema, cioè lo attutiscono, non è che il cane guarisce con questa roba qua. Se uno mi dice che cosa posso fare per aiutarlo, le cose che abbiamo detto finora, ma se vuoi aiutarlo davvero, vuoi andare a fondo, ti devi rivolgere ad un esperto. A seconda che il cane avrà paura o addirittura una patologia come una fobia, potrai aiutarlo tanto. 6.5, diffondi cultura. Diffondi cultura, perché questa è la cosa che abbiamo detto in apertura, cioè sta cosa di sparare i botti a Capodanno col fatto che fanno male, sì, così appunto, tanto agli animali, cioè vogliamo, ma veramente pure agli esseri umani, cioè al sud si sfasciano gli occhi, le dita si incendiano, è un'usanza, si spaccano, barbarica, cioè, facciamo delle cose meno veramente davvero assurde. E quindi va contenuta. A me fa molto piacere quei comuni che come si dice, vietano l'utilizzo dei botti a Capodanno. Mi ha colpito l'articolo di questo sito che si chiama natura.com, di questo, come si dice, lui è di, oddio non mi ricordo, comunque Mohammed, l'uomo che sotto le bombe aiuta i gatti di Aleppo. Lui dice che ha sempre amato i gatti, da piccolo ne aveva alcuni, e se sempre, così dice, perché i gatti l'hanno sempre accompagnato nella sua vita. Dopo lo scoppio della guerra civile però ha notato che sempre un numero maggiore di gatti rimasti senza padrone, perché i padroni sono stati costretti a fuggire e i gatti li hanno mollati lì. Sì. Così lui lui dice anche che le strade di Aleppo hanno iniziato a riempirsi di gatti, animale che nella tradizione islamica gode di altissima considerazione, e Muhammad ha iniziato ad occuparsi di loro. E invece una bella notizia, visto che è Natale, che di questo ragazzino... Ah, questo è splendido, tra l'altro è un esempio fantastico, cioè Natale è veramente la notizia che uno vorrebbe sentirsi dire. Noi pensiamo ai regali, al fatto di avere, cosa vuoi a Natale, cosa voglio avere. Bene, questo ragazzino dimostra che invece si è più felici se si dà. Nonostante le condizioni precarie della sua famiglia, ha deciso di vendere il proprio skateboard per prendersi cura di un randagio bisognoso. Pensate, come si chiama questo ragazzino? Si chiama Mauco Abeiro, questo è il nome del piccolo, che vive con la sua famiglia in Guayalamella, in Argentina. Nonostante non se lo possa permettere, ha deciso di portare a casa in primo soccorso un trovatello a quattro zampe con una zampa rotta e un malessere generale. Per far fronte alle difficoltà economiche nell'accogliere un'altra bocca, per offrire una migliore, un'altra bocca da sfamare, dove sta il resto del testo? Non c'è, però non si legge. Però insomma, questo ragazzino è straordinario. Cioè, visto che la famiglia, proprio perché la famiglia ha problemi economici, si è messo una mano sulla coscienza e ha detto: bene, vendo il mio skateboard pur di aiutare questo cagnolino qui. Sì, comunque questa storia ha fatto così scalpore che a breve tempo ha fatto il giro del mondo e i soldi sperati sono arrivati, e tutto senza dover rinunciare alla fine al proprio skateboard, perché la gente è rimasta colpita da questa azione. Ma tieniti il tuo skateboard, non ti preoccupare, ti aiutiamo noi con il cane, che poi tra l'altro è stato ribattezzato Rocco. Il bambino è diventato una celebrità in Argentina per quello che ha fatto. Grande. A volte veramente il buon esempio viene dalle persone più piccole. I bambini sono i più spontanei, sono i più sani, perché veramente anche quando ho visto questo video su Facebook di questa bimba di 3 anni che ha scoperto che quando mangia la carne e il pesce, quello prima era un animale, piangendo chiede alla mamma di non mangiarlo più, e dice: ma quello è un animale. La mamma gli dice: il pesce lo vuoi mangiare? E lei ci pensa un po' e dice: ma anche il pesce è un animale, quindi non lo voglio mangiare. Gli chiede: ma perché? Senti. E lei gli dice: perché loro se no sono tristi e soffrono. Noi abbiamo parlato, visto che parliamo di adottare il cane, no, lo skateboard in vendita per il cane, voglio ricordare che abbiamo parlato nelle puntate precedenti proprio di questo aspetto delle adozioni, che a Natale, oggi è il giorno di Natale, vi siete scambiati i regali. Io spero che se sia stato regalato un cane, che non si dovrebbe regalare, ma che se ve lo siete regalato, prendiate coscienza che è una vera e propria adozione e che deve essere fatta in responsabilità e consapevolezza, non è soltanto un regalo. A questo proposito, scaricatevi il podcast. A parte il podcast, la dichiarazione di fedeltà al cane, la trovate sui nostri social, in modo che possiate prendere coscienza di che cosa significa avere un cane. Vi darà tante soddisfazioni, però mi raccomando, genitori, se avete regalato un cane ai vostri figli, non aspettatevi, anche se vi hanno fatto tante promesse, che poi saranno loro ad occuparsene in toto. È normale ed è assolutamente contemplato ed è giusto così, che i responsabili veri del cane siete voi con l'aiuto dei vostri figli. Questo è quello che comporta l'adozione di un cane. Mi raccomando, quando poi andrete in vacanza, portatelo con voi invece di abbandonarlo. Portatelo con voi, dovete trovare qualcuno di cui vi fidate che lo tenga, dei dog sitter bravi che ci sono oggi, c'è sempre più consapevolezza in questo. Non mollatelo al primo che trovate, e magari il cane c'ha disagio semplicemente perché me ne dovete andare a fare un weekend, perché così siamo capaci tutti. Cioè, anche quello è un piccolo, il cane lo vive come un abbandono se il cane ha disagio e sta male. Nel frattempo invece vale la pena di ricordare che chi vive con un cane ha meno probabilità di ammalarsi di cardiopatie o di incontrare infarti. Ha un sistema immunitario più efficiente, i bambini sviluppano un'intelligenza sociale più spiccata rispetto ai bambini che con un cane non vivono, e questo ovviamente perché il cane nelle nostre vite, come abbiamo parlato, no, di coevoluzione la settimana scorsa, ci regala un sacco di cose, non è soltanto un vezzo, no? Mi piace, non è come la passione un della gadget. Pesca. Non è una passione della pesca, qui si tratta proprio di qualcosa che ci fa bene. Il cane, la relazione col cane è innestata nel nostro DNA, abbiamo bisogno degli animali anche per realizzare la nostra identità di esseri umani. Noi sappiamo che siamo esseri umani grazie al confronto con gli altri animali, siamo una specie che ha bisogno di essere contaminata. Figuratevi, intanto vi ricordo, chiedimi se sono felice, @24.it, e ci sentiamo fra poco. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E abbiamo con noi un VIP, anche oggi è un VIP speciale, un VIP del web, si chiama Violetta Rox. Ciao Violetta. Ciao Violetta. Allora, noi siamo rimasti, a parte che ci ridiamo sempre, a parte che siamo felicissimi di averti nella puntata di Natale, perché comunque Violetta esprime allegria. Io ho visto i tuoi video, comunque c'è un che li guardi e comunque ti viene il sorriso, anche se solo accennato, c'è un modo di fare che è molto positivo. Sì, ma è molto, cioè, sì, è anche quella roba calda, capito, tra persone un po' easy, ecco, non è soltanto. Sì. Super easy. Allora, intanto buon Natale, visto che ci vediamo. Grazie anche a voi, tanti auguri. C'è Angelo che sto cercando di dire la stessa frase. Allora. Poi volevo dire, Violetta, scusa, così si fa, grasse risate, perché a Natale bisogna essere felici. Brava, esatto. Brava. Scusa, proprio allora, per di te, a proposito cosa stai di risate, che noi ci facciamo guardando i tuoi video, siamo rimasti molto colpiti dal rapporto col tuo cane. Questo è il motivo per cui a casa, insomma, sappiate che abbiamo invitato Violetta Rox con noi. Non era perché ha fatto una gara in bicicletta? Ah, tu pensavi, sì, giustamente. Ma dove vado io? E quindi, insomma, con il rapporto col suo cane, vi facciamo ascoltare una clip e poi ne parliamo. Sì, ok. Bene, eccolo lì. Non è un amore, non è una creaturina di una dolcezza e tenerezza sconfinate. Non vi fa scaldare il cuore solo a guardarlo con quella sua mascherina nera da pagliaccio triste. Lo so, vi si sta sciogliendo l'anima. Beh, rimettetela in frigo, perché io vi giuro che mai come in questo momento, i detti l'apparenza inganna e l'abito non fa il monaco sono stati più veri. Perché dietro a quel dolce musino con il naso da tartufo profilo di cioccolata. I grandi occhi globosi si nasconde globosi. Il Cerbero, il cane infernale descritto da Dante nei migliori dei suoi cantici. Il diavolo della Tasmania, uno stalker seriale morboso e con manie di possesso. Cosa fa il mio cane quando non sono a casa? Vai! Ecco. No, vabbè, insomma, Violetta, a parte che fa veramente ridere anche solo ad ascoltarlo, ma tu poi hai un'edizione fantastica, cioè veramente, veramente complimenti. Grazie, anni di studio, questo, dai. Questo per farvi assaggiare un po' del talento di Violetta, se volete ascoltarlo ancora andate sul suo canale YouTube, Violetta Rocks, che secondo me ha 200.000 iscritti, insomma, è successo meritatissimo. Riconoscono più lei, secondo me, che Pippo Baudon. Oramai. Oramai, sì. Non lo so, non esageriamo. No, vabbè, Pippo, sai, Bauda. Beh, fra le nuove generazioni. Però brava, tutto meritatissimo. Senti, come nasce tutto ciò? Tutto ciò nasce da un'esigenza interiore, se così vogliamo dire, perché io sono sempre stata sicuramente appassionata di cinema, di videomaking e tutto quello che riguarda la parte tecnica del mondo dello spettacolo e niente, poi ho studiato queste cose e mi sono trovata anche a lavorarci in mezzo e un giorno poi ho scoperto YouTube quando c'è stato l'inizio, diciamo, quindi qualche anno fa. E ho visto che con poche cose, insomma, con le proprie capacità e pochi mezzi si poteva tirar fuori la propria creatività e quindi ho deciso di sperimentare e poi piano piano ho avuto un seguito e adesso diciamo un appuntamento e invece l'amore con il tuo cane come è nato? Cioè com'è che ti è venuta l'idea di adottarlo? Da cosa è partita questa cosa? Ma io quando ero ragazzina avevo un gatto, l'ho avuto per 13 anni insomma, ma ero proprio piccolina e poi in realtà mi è venuta questa passione per i cani perché mi piaceva l'idea di portarlo fuori, insomma che avesse ancora più bisogno di cure di un gatto perché sai, i gatti sono molto indipendenti, mm-mm, diciamo, e quindi fanno un po' fanno un po' una vita, sì. E quindi invece ti piaceva proprio, invece avevi proprio l'esigenza di prenderti cura di qualcuno. Esatto, mi sarebbe piaciuto molto, soltanto che ho dovuto aspettare di andare a vivere da sola per prendere un cagnolino perché insomma è anche più impegnativo sicuramente di un gatto, sì. E quindi diciamo che i miei non erano proprio dell'idea e quindi appena sono andata a vivere da sola ho deciso di adottare questo cagnolino e ho scelto un carlino perché il mio fidanzato va matto per i carlini, ne ha sempre avuti tantissimi da piccolo, che sono simpaticissimi, però sì, no? Da morire. Io sono innamorata dei carlini appresso a lui. Sta facendo il piccoletto dagli occhi globosi. Ma in questo momento si è rassegnato all'idea che io sono al telefono, cosa che di solito non condivide perché percepisce che do l'attenzione a qualcosa che non è lui. E quindi adesso mi sta guardando con l'aria afflitta, seduto in un angolo della casa. Sai che Carlino è uno dei cani che piacciono di più a mio padre? Ah sì? Sì. Davvero? Lui è appassionato di tutti i meticci, quelli che i cani fantasia, quelli che non hanno, sì, come si dice, che non, insomma, gli piacciono quelli lì, quelli di strada. Però quando se dovesse scegliere una razza, ha sempre detto che lo divertivano moltissimo i carlini. Infatti sono, io dicevo, un giorno glielo regalo, poi evito ovviamente. Sono molto buffi, sì. Ma poi io lui, tra l'altro, l'ho, perché l'idea della compravendita degli animali non è una cosa che mi ha mai allettato, infatti anch'io all'inizio volevo un meticcio, però poi lui l'ho trovato proprio da una famiglia che lo aveva acquistato ma non poteva più tenerlo, quindi certo, l'ho vista comunque come una cosa, certo, diciamo, brava, non come acquistare un animale, ma come, sì, infatti io l'ho preso che era un po' più grandino, mm-hmm, di come si prendono negli animali. Ma il fidanzato, ecco, c'è sempre? Sì. Sì, infatti è un pazzo di Ringo, il mio fidanzato è pazzo di Ringo e purtroppo questa cosa non è sempre reciproca perché Ringo è molto molto geloso di me, quindi spesso avviene perché probabilmente passerà più tempo con te che con lui, quindi sai, poi sì, sei maschio, figurati. Sì, va bene, darò due dritti al tuo fidanzato. Per quale motivo, scusa? Come per quale motivo? Ma scherzi, il cane che lui adora. Ma dovrebbe imparare dal cane per conquistare la sua fidanzata, sì. Scusa allora. No, darò due dritte, ma però due diritti al fidanzato per conquistarsi Ringo, non la sua fidanzata. Quello va già fatto, insomma, in teoria, diciamo, dovrebbe essere appurato, dai. Sì. Senti, c'è un po' di rivalità. Come passerai questa giornata di Natale? Come hai passato già insomma questi giorni di festa? Stai lavorando o sei in vacanza, mi auguro, per te? Ma lavorando, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, si lavora quello sempre in realtà, perché YouTube, la programmazione di YouTube non smette mai. Però vabbè, insomma, mi sono ritagliata un po' di tempo per stare con la famiglia, classico di Natale, no? Certo, bene, bene. E Ringo sempre. E Ringo sempre, che adesso ha ricominciato ad aggredirmi alle caviglie. Ma non si sente alle caviglie, fa sentire... Ecco, Ringo, fai sentire come mi stai aggredendo... Scusate, oddio, mi sono avvicinata, mi ha spostato. Ammazza, ma non pensavamo così. Ringo, fai sentire, no, ci sta aggredendo. Ti mando un mio collaboratore di Roma, qua c'è bisogno di un salvataggio. Ma perché proprio è molto morbosetto, diciamo, come cane. Ma è buffissimo. No, guarda, comunque quel video, vi giuro, andate a vederlo perché è veramente divertente. Senti, Violetta, grazie per aver passato questa giornata di Natale con noi. Ti facciamo tanti auguri. Complimenti veramente, perché sei proprio brava. Bravissima. E poi mi hai detto che fai tutto da sola praticamente. Quindi sei operatore di te stesso, regista di te stessa, autrice. Già, è un po' quello che si fa, diciamo, su YouTube, in realtà non sono l'unica, no, perché... però... Questo è quello che dovrebbero fare oggi giorno. Io sento tante volte, ma tanto non c'è lavoro, non c'è le cose. Cioè, ma reinventati, ma fai qualcosa. Ho capito. Bisogna inventarselo un po' il lavoro, perché praticamente io ho fatto così, l'ho inventato, diciamo. Ho capito, però sai, se non ci sono contenuti, ha voglia inventare. Sì, certo, la rete fa una selezione naturale. Sì. Di generi, cioè tu, il contenuto è la vita, è tutto quello che c'è attorno a te. Beh, qui finiamo su un discorso che io ho sempre avuto anche con mio padre della serie, che non tutti possono diventare chiunque. Infatti ognuno con umiltà deve essere se stesso e fare grandi cose da se stesso col proprio stile. Sei d'accordo, Violetta? Oh, mi sembrano degli ottimi propositi per l'anno nuovo. Vedi, questo, nel 2017 dovevo parlare di questo. Mi sembra proprio un ottimo consiglio da dare per i propositi per l'anno nuovo. Ma tu sapresti dare, per esempio, visto l'esperienza che hai avuto, un consiglio a chi volesse, un giovane che vuole iniziare e che non sa che utilizzo fare del web, avresti un consiglio da dargli, vista la tua esperienza personale? Io, per mia esperienza personale, posso consigliare innanzitutto di impegnarsi davvero tantissimo, perché molte volte si fraintende che chi lavora sul web con 3 minuti riesce a produrre contenuti, a fare i numeri, i soldi e tutto il resto. Non certo. È così, assolutamente, perché nella maggior parte dei casi c'è sempre un grandissimo lavoro dietro, un grandissimo impegno dietro, e soprattutto tanta costanza e forza di volontà, soprattutto quando fai tutto da solo, perché non hai neanche un team di lavoro con cui ti sproni a vicenda, diciamo. Sì. Quindi, ma tu quando hai iniziato non sapevi che direzione prendere? Cioè, è venuta fuori con la risposta della gente che ti seguiva? Tu hai saputo che come diciamo, ti sei plasmata mano a mano, o avevi le idee chiare fin dall'inizio? Non delle idee chiarissime, avevo delle idee, però quelle si sono poi evolute anche con il confronto con il pubblico, cioè con i ragazzi che comunque mi seguono, sicuramente. Cioè, tu attualmente ogni quanto tempo pubblichi un video sul tuo canale? Sul mio canale una volta a settimana. Tantissimo. Una volta a settimana? Tantissimo. Cioè tu con costanza, da quanto tempo lo stai facendo? Dal 2011. Dal 2011? 5 anni, mi sembra. Tutte le settimane, cioè non ne hai saltata neanche una? No, beh, ogni tanto sì. Ecco, sei umana anche tu. Sono umana anch'io. Che poi però non fai solo quello, non fai solamente i video per il tuo canale, giusto? No, esatto. Poi con il tempo sono stata contattata da un ufficio stampa di Roma che si occupa di cinema, che si chiamano Screen Week, e con loro, per i loro canali, produco invece dei contenuti di cinema, appunto, che hanno a che fare con le uscite cinematografiche, con il gossip hollywoodiano, queste cosettine qua. E tra l'altro stiamo facendo anche una piccola web series incentrata sul mondo delle serie TV e del cinema, dove siamo io e un altro ragazzo che facciamo un po' Sandra e Raimondo Vianello. Ah, pure voi. Di oggi. Esatto. No, perché abbiamo continuamente serie televisive a manetta, diciamo. Infatti, eccola. Esatto. No, perché qui la passano Peter spesso. Ce la passa spesso anche perché dice che io e Angelo, tutti dicono che Angelo sembriamo Sandra e Raimondo, però Angelo e Sandra, io sono Raimondo, ovviamente. Oh, lì, okay, è lì la particolare. Tu saresti un po' più sbirulino in realtà. Esatto. No, comunque le web series anche a me piacciono tanto, difatti è una cosa che vorrei fare anch'io a breve, chissà. sono sicuramente interessanti. A me piace molto la rete perché fa una selezione naturale delle cose che funzionano e quelle non, perché uno prende e cambia, non ci sono filtri, non c'è gente che decide. Vabbè, per te, sentitevi in separata sede perché Violetta, tu dovrai fare un mini corso a Rosita sulla disciplina. Eccoci. Vabbè. Sai cosa, Violetta, il mio fidanzato niente, ha un'idea di me che non corrisponde molto a me, chissà con chi è stato questi tre anni. Ma cosa stai dicendo? Cominciamo, vedi Sandra e Raimondo che vengono fuori. Cominciamo, vedi, altri buoni propositi per altri buoni nuovo, propositi. Esatto, esatto. Senti Violetta, ancora grazie, ci ha fatto un grazie sacco piacere passare questo tempo di domenica natalizia con te, mi ha fatto piacere conoscerti telefonicamente, chissà mai che un grazie giorno ci ritroviamo. Buone feste a tutti. Buon Natale e tante coccole agli occhi globosi di Ringo. Esatto. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao, grazie. Violetta, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Qualcuno sa da dove viene questo proiettile? Perché è vero che a spararle è stato uno stronzo talebano, ma qualcuno gli ha dato il fucile. Valerio Mastandrea racconta Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Chiama la sala operatoria, avvisali, ne abbiamo altri tre. E questo va in radiologia, questo va subito in sala. Il radiodocumentario dall'ospedale di emergency a Kabul, con le testimonianze degli operatori. Ti puoi abituare alle conseguenze della guerra, ma non ti abituerai mai ad un'esplosione. Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Il web documentario su emergency.it. Il radiodocumentario, lunedì 26 dicembre alle 16:30 su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E anche questo Natale sta già lì che sta, cioè abbiamo il pranzo di oggi buon giusto Natale per continuare a ingozzarci, no? Vero? Che abbiamo preso già... C'è una vignetta di Mafalda fantastica che dice: mi raccomando, ricordatevi il 24 dicembre di mettere la bilancia 10 kg indietro. Che è un genio. Bellissimo. Allora, oggi è la giornata di Natale e noi abbiamo pensato, come sempre, a voi e ai vostri amici animali, anche per quanto riguarda il mangiare. Che cosa mangiare oggi? È come sempre ci dà una mano la nostra Mara di Noia. Piatti e ciotole. Piatti e ciotole, perché voi vi mettete lì e preparate il pranzo, la cena di Natale con gli stessi ingredienti, fate il piatto per voi e il piatto per i vostri cani, con una gatti piccola modifica alla fine. La nostra cucina condivisa. Mara, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti. Ah, auguri di buon Natale davvero, che sia, speriamo che apra veramente di più le coscienze, il cuore, l'anima delle persone. Sì, noi iniziamo dalla cucina perché la cucina apre il cuore e quindi quale occasione migliore del Natale per far sedere con noi alla nostra tavola anche i nostri amici animali. Ecco. E quindi io vi propongo oggi i cannelloni addirittura. Allora, tu oggi tra l'altro ci dai due ricette, cioè una per oggi che è Natale e l'altra per il cenone di Capodanno. Sì, per una variante vegetale anche, insomma, per queste grandi feste, visto che mangeremo tanto e possiamo per una volta stare più leggeri. Esatto. Quindi per Natale vi propongo i cannelloni di cavolo cappuccio agli anacardi. Oddio, il cavolo cappuccio io lo adoro, il cavolo cappuccio, il sedano rapa, tutta roba che io adoro. Quindi scusami, sì, ripeti, i cannelloni... fanno grande bene. Infatti. Allora, soprattutto il cavolo cappuccio, devo dire, tutta la famiglia dei cavoli. Cannelloni di cavolo cappuccio agli anacardi. Vi occorrono 400 g di tofu al naturale, 400 g di fagioli borlotti già cotti, 6 foglie larghe di cavolo cappuccio rosso, 6 foglie larghe di cavolo cappuccio bianco, 80 g di anacardi non salati, una carota e della salsa di soia, un cucchiaio è sufficiente, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale. Dovete semplicemente rimuovere da tutte le foglie di cavolo la parte più dura di questa della foglia, che è quella centrale, no? Sì, che è quella centrale, ma basta proprio togliere il pezzetto la attaccato iniziale, proprio, esatto. Sì. Quindi le scottate in acqua calda per una decina di minuti, devono diventare un pochettino morbide, le scolate delicatamente in acqua e ghiaccio in modo tale che non perdano il loro colore brillante. Ah, com'è questa? Com'è? Sì, praticamente si passano in una ciotolina con acqua e ghiaccio, uh-huh. e le verdure non diventano di un colore marroncino che è poco invitante. Uh-huh. In questo modo, per esempio, il colore viola del cavolo rimane brillante ed è una meraviglia proprio da vedere. Bello. Le stendete con cura ad asciugare su un canovaccio, uno strofinaccio, tagliate a cubetti la carota, la fate rosolare in padella col cucchiaio di olio, nel frattempo tritate grossolanamente gli anacardi con un coltello, riunite in una ciotola il tofu naturale sbriciolato, il soffritto di carota, metà degli anacardi tritati e i fagioli schiacciati, quindi impastate il tutto con delicatezza, alla fine salate con il pizzico di sale. Distribuite questo ripieno lungo le coste di cavolo e le arrotolate una a una ricavando 12 cannelloni. Disponete i cannelloni in una pirofila oliata, li condite con un filino di olio, il cucchiaio di salsa di soia e cospargete poi con i restanti anacardi. Vanno infornati a 170 gradi per una ventina di minuti. Quindi per il piatto umano vanno benissimo così, mm-hmm. per il piatto dei nostri animali come sempre potete mescolarli a dei fiocchi di cereali, aumentano la consistenza e danno anche un po', diciamo, di volume, mm-hmm. ma appunto, come dico sempre, rimane normalmente nella ciotola pochissimi minuti, soprattutto per i nostri cani. Eccoci. Fantastico. Senti, scusami, solamente una curiosità: tu per fare questi tipi di piatti di cui ci parli tutte le domeniche usi macchinari particolari, dei frullatori, delle cose particolari o le cose che possono avere tutti in cucina di base? Allora, io tendenzialmente ho una cucina molto semplice, quindi non ho bisogno di molte cose, ho solo un frullatore, diciamo, di quelli più moderni che tritano molto bene, anche soprattutto perché io uso molto la frutta secca, mm-hmm. e okay. quindi per fare delle creme, ad esempio, occorrono dei frullatori un pochino più moderni. In linea di massima, però, veramente io ho un'attrezzatura che è quella che hanno tutte basica. Le case. Okay. Sì, molto, molto basica. Okay, perché perfetto. La cucina, secondo me, si fa sulla qualità dell'alimento, non tanto sull'attrezzatura, almeno per no, quanto no, riguarda. No, sono d'accordo, però magari a volte per fare degli impasti, delle cose, ci vogliono, sembra che se non ci siano queste macchine super... Tra l'altro hai sentito Mara che diceva che bisogna sempre impastare con delicatezza, Rosita. E cosa c'entra? Vabbè, questo... trattare l'impasto con delicatezza. Ma io l'impasto lo tratto con delicatezza, cara. Sono le cose che non devo impastare che magari a volte le tratto con una delicatezza. Beh. Ma andiamo avanti il cenone Capodanno. Di Capodanno. Sì, allora, aspettate che trovo la mia ricetta. Allora, visto che l'ultimo dell'anno è consuetudine mangiare il cotechino. E insomma, molti vegetariani, vegani, io non lo mangio dal 1999, mi sono inventata una forma che ricordi quella del cotechino, ma in realtà non è a base di carne di maiale, ed è appunto una sorta di cotechino di lenticchie, possiamo chiamarlo, mm-hmm. polpettone di lenticchie. Mm-hmm. Allora, ci occorrono 400 grammi di lenticchie lessate, una carota, una costa di sedano, un cucchiaio di olio e il solito pizzico di sale. Uh-huh. Facciamo praticamente saltare la carota e il sedano tritati nel cucchiaio di olio, uh-huh. aggiungiamo le lenticchie precedentemente lessate, le cuociamo per 15 minuti, giusto per far insaporire, insieme a mezzo bicchiere di acqua. Alla fine, quando tutta l'acqua sarà assorbita, frulliamo con un frullatore normale le lenticchie e questo trito di verdure insieme a 3 o 4 cucchiai di amido di mais. L'amido di mais va a sostituire le uova, quindi in questo polpettone non ci sono neanche le uova ed è un addensante che non ha nessun tipo di controindicazione né per le persone né per gli animali. Con questo impasto fate un salsicciotto e lo arrotolate in un foglio di carta da forno che è stata precedentemente bagnata e strizzata, arrotolate e chiudete a caramella le estremità, avete presente con dello spago, chiudete le estremità in una teglia oliata. Mettiamo appunto questo polpettone in una teglia oliata e inforniamo per 30 minuti a 190 gradi. Lasciamo raffreddare, quando toglieremo la carta avremo veramente la forma della, del cotechino che possiamo servire, mi viene da dire, con una crema di carote che si può fare semplicemente tritando delle carote crude con dell'olio di oliva extravergine e un pizzico di sale, oppure la stessa cosa con il sedano rapa, per avere un piatto diciamo forse più particolare. Per i nostri animali, semplicissimo, nella ciotola tagliamo a fette, due o tre fette del polpettone, lo mescoliamo a riso soffiato oppure ad altri cereali soffiati, per noi nel nostro piatto poi ci mettiamo quello che vogliamo, magari un contorno di verdure e tutto ciò che ci viene in mente. Wow, mia, insomma avete servito anche la cena di Capodanno, grande Mara, grazie. Grazie a voi, questo per dire che non c'è limite, con il regno vegetale non c'è limite. No, non c'è, ovviamente non c'è limite, no. E senti, grazie mille, ancora buone feste, trascorri bene questi giorni in famiglia con tutti i tuoi figli, marito, animali, tutti assieme, chissà che cosa. E quindi noi ci rivediamo, poi ci risentiamo nel 2017. Sì, il primo, certo. Il primo di gennaio. Ci sentiamo il 1° gennaio. Benissimo. Senti, cosa vuol dire? Ti toccherà cucinare oppure riesci a riposarti almeno nei periodi delle feste? No, io cucino sempre, Rosita, non riesco mai ad astenermi, non ce la faccio. Perché per te è proprio un piacere, no, cucinare? Per me, a parte il piacere, ma è una forma meditativa. No, sai perché rido? Perché è cretino. Vaira, a Natale almeno, brava, non spaccare gli squaraus. Vogliamo più Mara di noia in questo mondo. Perché io gli ho detto, perché lui mi ha detto che sono una trappola, gli avevo detto che ero una casalinga, ma io sono anche una casalinga, però a volte non ho voglia di cucinare, a volte ho voglia di... Guarda, Rosita, secondo me devi provare, quando tu sei molto arrabbiata o hai qualche pensiero, la prima cosa che devi fare è cucinare. Guarda, io lo faccio già, ma lo faccio soprattutto quando sono quando non riesco a dormire la notte, che c'erano i periodi che magari la notte proprio mi veniva l'ansia, stavo sveglia, andavo in cucina, iniziavo a cucinare, così dicevo ma addormenterò alle 7 del mattino. Succedeva tipo 20 anni fa, quando io proprio non la conoscevo. Vabbè, ora adesso non sono più nervosa, sono un Buddha. E quindi devi passare più tempo con Mara di Noia, anche se poi chi va con lo zoppo impara a zoppicare, quindi speriamo invece di non fare un danno alla famiglia di Mara. Va bene, no, comunque è vero, la cucina riequilibra e diffonde energia positiva, secondo me. Sì, sicuramente. Senti, grazie, poi Mara. Quando sai che cucini nel rispetto della vita in generale e della salute, a quel punto ti senti veramente in pace con l'universo. No, possiamo veramente augurare il buon Natale vero con buon Natale, piatti. Buon Natale a tutti quanti. Mara, un abbraccio grande, grazie, ci vediamo voi, il primo di gennaio. Ciao, grazie. Ciao, Mara. Ciao. Ragazzi, andiamo a mangiarci anche noi un pranzetto, visto che non abbiamo mangiato niente ieri in questi giorni. Buon appetito e buon Natale. Natale.